Giuseppe è mollato su impianto su elettrico, su amica Gaiana su quasi idraulico, su Bregamuro, no? Sicuramente non ha rifiutato tanto, Kimbe, tutto Paris, in una ghida, tutto lasciato, su non deve più la minima intesa. Che te vai sul SIU? Sul SIU vai come programmazione su PC Mela, su Ravagliani mi dice su PC ogni lezione 20 euro un'ora, compreso, minimo. Oh, poi antenna digitale terrestre, TV SAT, ecco, naturalmente su elettrodomestico, so, la grande, se avessi antica non le vediamo, però non mi vede più su da andare a studi dentistici, e nemmeno impianto elettrico, tutto eliminato, come di andare solamente su beauty center, cambi su giubbio. Questa sandini, cucinare in mano, antenna, 1000 euro, non ti fai ne problema, sa? Comunque si vuole entrare nella museo dei maxi imprenditori. Perché se vi fate girando, ma io sto travagliando da sé, magari vi sei stato continuo, magari. Beh, qualcuno sì, beh, a chi cliente non mi devo trovare a manco. Non devo trovare a manco, quando ti lo vedi, l'ho fatto senza attere, compreso. Ma l'ho fatto a titolo di piacere, compreso. Sì, non mi interessa più questo. Ho appunto a ricambio a me da Philips, Grunding, Normand, Mivar. Basta nemmeno un euro mese, secondo che denaro non ho nulla, non riesci più nulla. E te cazzo fai, non la sega. Sono il commissario di Giamma, ho fatto un ottabicolo sul cliente mio, come te l'ambito, qui, diretto. E una ragazza in intrada. E vabbè, manto. Se la parola già so fatto, ma problema a mano. E poi, abbiamo già portafoglio clienti di cosa ne fare della cura. Ma che cazzo si vede più su? A Benvenuto c'è una calaisa a me che mi vanno a cantare canto, figura da isso. Ma non se ne vana, non se ne vana più su. Ma c'è ancora compreso una cosa, che a me telefono, hanno nominato, bene che la manzana andava, ma non se ne vana più nulla. Hanno seguito a c'è la cosa, c'è la stile, c'è la tua figlia, c'è la patricia, un'antenna, ci fanno tutto. E a isso chiama, magari. Sì. Ma la sapete, mi vede da via questa cosa. A solo pensare, ehi, bello. Fu un altro con i pazzini, sa Grundig, e lui che pure all'interno. E infatti conosco bene l'elettromeccanica, conosco bene l'elettronica, magari questi che gli anni sono papiro dei sasoni, però. Ma come non be più sicuro? Televisore come, secondo me che si deve andare a lui riparare, a Nie, e se non è magazzoni ti deve bucare tutto me. E Nie, ma se mi voglio pregare che sia, se lui non ha bisogno si collabora, compreso. Dai, fai il chiuso che piace con questo bordetto che ti faccia di matto a teula. Ma tu da bere, sorrisi su di te. Ma poi non l'ho appena tutto segato, ma non è bene da che lui mi guarda, mi guasta, lì sta fai che adesso il televisore ha fatto. Che neanche questo televisore quando lo piega io, da quello che trovo a piegare la copertura, perché fa la io, che faccio il televisore, come mancante. E sa conca che viene a me, variato questo, i giovani variato. Beh. Naturalmente, si che dovrebbe essere diritto su un cazzo sicuro. Vabbè, se importante se essere sano, da tanto. Se no saluto dopo cos'è, tutti si che non si vedono un cazzo. Noi riteniamo San Pru, ciao. Ma che qui, ci sono in nove. Ci sono rientrato, ci sono rientrato in degli amintenese. Da lì a poco quanto sono più in giro, nella storia. Forse devo rientrare per forza, capite? Cosa a me da sono in nove non ne posso fare a manco. Quindi rientro adesso, ando loro, insomma, sempre alla roba, via. Quelli qui là non va problema. No.